GR24, il sole 24 ore. Non regge la tregua, suonano ancora le sirene a Tel Aviv ed è pioggia di missili su Gaza. I lacrimogeni lanciati dalle finestre del Ministero della Giustizia, la Severino avvia un'indagine interna e a Palermo nuovi scontri con la polizia. Crimini di guerra nella ex Jugoslavia, assolto il croato Gotovina. Si conta la quinta vittima dell'ultima ondata di maltempo in Italia, adesso a preoccupare sono le piogge in arrivo al sud. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Cici. Poco fa sono suonate nuovamente le sirene a Tel Aviv. Non ha retto dunque la tregua che era stata annunciata in coincidenza con l'arrivo del premier egiziano. Ne parleremo fra pochissimo in questo GR24 con l'inviato del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Ora invece i fatti di Palermo. Nel giorno delle polemiche, nel giorno in cui il ministro della giustizia Severino ha deciso di fare chiarezza su quelle immagini dei lacrimogeni lanciati da una finestra di via Arenula, nuovi scontri con la polizia a Palermo. Raffaella Calandra. Sì, buongiorno. Nuovi lacrimogeni, nuove cariche con altri fermati ed altri feriti, mentre insieme alle piazze si infiammano anche le polemiche ancora per i cortei di mercoledì. In questi minuti a Palermo la polizia ha caricato infatti alcuni gruppi dei centri sociali che prima davanti a Palazzo d'Orlean, sede della regione, poi all'altezza della cattedrale avevano lanciato pietre e petardi durante la manifestazione degli studenti ed un ragazzo è stato fermato mentre tre poliziotti sono stati feriti. Nuovi episodi che dunque inaspriscono ulteriormente la tensione già molto alta per gli scontri del giorno anti-austerity in tutta Europa. Tensione riaccesa anche dalla pubblicazione di un video che riprende il lancio di lacrimogeni dalle finestre del Ministero della Giustizia a Roma. Il guardasigilli Paola Severino ha disposto un'indagine interna esprimendo inquietudine e preoccupazione, anche se precisa in una nota che quel tipo di lacrimogeno usato, cioè a strappi, non è in dotazione alla polizia penitenziaria impegnata negli uffici del Dicastero. Un'indagine è stata sollecitata anche dalla stessa polizia, anche se alcuni, come i vertici del sindacato, giudicano improbabile quel lancio dal Ministero dei lacrimogeni, bollato dal leader di SEL, Nichi Vendola, come una sospensione del diritto. E il ministro dell'Interno, Cancellieri, fa sapere che punirà gli agenti violenti, anche se le manifestazioni, precisa, vanno fatte all'interno della legalità. Di tutto questo torneremo a parlare tra poco all'interno di Italia in Controluce. Piera. Il punto di Stefano Folli. Ha fatto bene il ministro dell'Interno Cancellieri a difendere le forze dell'ordine dopo gli episodi di guerriglia urbana dell'altro giorno nelle varie città, ma soprattutto a Roma. È giusto dire, anche se ad alcuni non piace, che occorre vedere tutte le immagini degli incidenti in piazza e tutti i filmati, non solo quelli che fanno comodo per sostenere una tesi di parte. La verità è che il paese sta vivendo il suo momento più difficile e colpire le forze dell'ordine diventa un obiettivo politico più che un servizio reso alla verità. Il Viminale diventa quindi l'occhio del ciclone in una spirale che sarebbe però distruttiva per la convivenza civile. Quindi ha fatto bene il ministro a parlare chiaro, ma il peggio non è passato. Occorrerà essere molto vigili nei prossimi mesi, i mesi pre-elettorali, vigili e con i nervi saldi. Dunque di questo argomento torneremo a parlare in Italia in Controluce in onda alle 13.30. Ora invece, come dicevamo in apertura, andiamo in Medio Oriente e ne parliamo con l'inviato del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi, che torniamo a salutare. Buongiorno Ugo. Buongiorno a voi. Allora partiamo intanto da questa nuova allarme su Tel Aviv. Si sono sentite nuovamente le sirene, ora ne sappiamo qualcosa di più. Sì, un altro missile probabilmente di fabbricazione iraniana, quindi a lunga, più lunga gittata, capace di fare 50-60 km ed è arrivato alla periferia di Tel Aviv, non proprio a Tel Aviv, per fortuna come quello di ieri sera è caduto in mare, ma questa è la dimostrazione. Quindi che non ci sono state vittime. Non ci sono state vittime, ma questa è la dimostrazione che Hamas o chi per lui o la Jihad Islamica, comunque oramai sono un unico corpo combattente, non ha rispettato quella terra. Del resto Hamas non aveva proposto, solo gli israeliani durante la visita del primo ministro egiziano avevano annunciato una tregua unilaterale, mentre invece Hamas ha continuato le sue provocazioni. E così è stato. Ugo, cosa sta succedendo? Insomma, erano un po' di anni, no, che non vedevamo più queste foto sui giornali, funerali palestinesi, bimbi israeliani con le facce insanguinate. Si erano solo spenti i riflettori su quella zona, oppure ci sono stati dei fattori che hanno determinato dei cambiamenti? Penso per esempio alla primavera araba. Soprattutto si sono spenti i riflettori, non è abbastanza frequente. Quelle immagini sono abbastanza frequenti a Gaza o nel sud di Israele. È che non di queste dimensioni, naturalmente, per rivedere qualcosa di così eclatante bisogna tornare a 4 anni fa a piombo fuso, alla vera operazione, alla vera guerra, insomma, di 24 giorni. Però ci sono sempre state, un attrito c'è quasi sempre stato, si passa da un cessate il fuoco negoziato dagli egiziani a un altro, a qualche razzo, a qualche reazione israeliana, e questo è continuato sempre, anche perché la questione palestinese e Israele sono usciti praticamente dallo scenario a causa delle primavere arabe. Sotto qualsiasi forma le primavere arabe si siano manifestate pacificamente scrivendo costituzioni piuttosto che invece in guerre civili. Comunque la questione della liberazione della Palestina o l'occupazione israeliana dei territori non erano in agenda. Era in agenda, c'è la libertà dei cittadini, ci sono le riforme economiche, ci sono appunto le costituzioni, cioè vincere una guerra civile contro il dittatore. Quindi era completamente uscita i riflettori si erano spenti su quella vicenda, ma che, come regolarmente ci dimostra da più di 100 anni, anche torna se sempre alla ribalta. Ignorare, ecco, Israele sta richiamando i riservisti, insomma, non ci attendono probabilmente tempi facili. Cosa vedi tu nel breve periodo? Ma di questo livello così non può durare, cioè o funziona il cessate il fuoco che gli egiziani, i turchi e altri stanno negoziando. Vorrei sottolineare che non ci sono gli americani, perché hanno ben altre cose da fare, e questo è un fatto nuovo delle primavere, oramai i protagonisti sono gli arabi. Quindi o negoziano la tregua, oppure entro 2 giorni gli israeliani entrano con le forze terrestri. A questo livello l'attrito non può durare, è troppo teso. Ecco, il ruolo dell'Europa, perché stamattina ha parlato anche la Merkel, che si è detta preoccupata per l'escalation delle violenze, ha detto che ha invitato l'Egitto ad usare la sua influenza su Hamas, e poi ha anche detto che Israele ha il diritto e il dovere di proteggere il suo popolo. Poi c'è stata una dichiarazione invece della Ashton, l'Unione Europea si dice preoccupata naturalmente dall'escalation di violenze in Israele nella striscia di Gaza. Di nuovo un'Europa impotente? Sì, tutte le volte che succede qualcosa in Medio Oriente, di buono o di cattivo, mi si chiede sempre, tante volte mi chiedo, ma l'Europa non esiste, l'Europa non c'è. C'è la Germania, c'è l'Inghilterra, c'è la Francia, a volte c'è anche l'Italia, più sul piano economico che sul piano politico. Ma l'Europa non c'è. In questo momento si sono sfilati gli Stati Uniti, figuratevi quanto possiamo contare noi europei. Dobbiamo fare i nostri compiti a casa, lo sappiamo benissimo, perché dopo il problema economico-finanziario, dopo l'euro, ci si tratta di costruire finalmente una volta per tutte anche le strutture politiche e di difesa comuni dell'Europa. Quando avremo fatto questi compiti a casa, potremo presentarci in Europa ed nel mondo, non solo in Medio Oriente, ed essere credibili. Così noi, come Europa, la Ashton è il simbolo perfetto dell'inutilità dell'Unione Europea dal punto di vista della diplomazia. Grazie ad Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, che ci ha fatto un po' chiarezza su quanto sta accadendo purtroppo in questi giorni in Medio Oriente. Noi voltiamo pagina, andiamo a quella economica, a partire dalla crisi greca. La Grecia oggi rimborserà 5 miliardi di euro di bond grazie ai fondi arrivati a inizio settimana dall'emissione di titoli obbligazionari a breve, che hanno compensato il ritardo dei finanziatori dei fondi UE e FMI. Atene, a secco di liquidità, aveva di recente paventato il rischio di non riuscire a effettuare i pagamenti. Ma, superato lo scoglio, resta il prossimo appuntamento del rilascio della tranche di 31 miliardi di euro. L'Europa deve trovare un accordo però per inserire il debito sui binari della sostenibilità. Lo ha detto il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che ha interrotto prima il suo viaggio in Asia per essere presente alla cruciale riunione di Bruxelles dell'Eurogruppo del 20 novembre, in cui si discuterà appunto ancora una volta del caso greco. Fondo Monetario e UE fanno parte insieme alla BCE della Troica, che controlla i prestiti alla Grecia. Attualmente però c'è un profondo disaccordo, perché il Fondo Monetario non esclude un haircut, cioè un taglio del debito greco, da parte dei governi europei per dare sostenibilità al debito greco, mentre la Germania e Bruxelles preferirebbero altre soluzioni. Vittorio Darol, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A settembre, fa sapere l'Istat, il commercio estero segna una battuta d'arresto con le esportazioni che scendono del 2% rispetto ad agosto e del 4,2% su base annua. Si tratta della peggiore flessione da dicembre 2009. Anche le importazioni calano, cedendo il 4,2% a livello congiunturale e il 10,6% sull'anno. E nuovo calo, il 13° consecutivo per il mercato dell'auto in Europa. Calano ancora le vendite di auto in Europa, ma meno dei mesi precedenti, e scende ancora, sia pure di poco, la quota del gruppo Fiat, penalizzato dall'andamento fortemente negativo del mercato italiano. Ecco i numeri resi noti stamane dall'ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europei. A ottobre sono state vendute nei 30 paesi dell'Unione più EFTA circa 960.000 vetture, contro poco più di 1 milione nel 2011. Il calo del 4,8%, il minore di quest'anno se si esclude il mese di giugno. Nei primi 10 mesi dell'anno le immatricolazioni sono diminuite del 7,3%, ovvero 800.000 auto vendute in meno rispetto all'anno precedente. Fiat ha ceduto il mese scorso il 5,8%, con una quota quasi invariata al 6,5%. Come detto, pesa sui marchi del lingotto la contrazione del 12,4% del mercato italiano. Nel periodo da gennaio a ottobre il gruppo torinese ha venduto il 16% in meno rispetto al 2011, con una quota di mercato in Europa ridottasi dal 7,2% al 6,5%. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il dialogo fra le imprese e le nuove generazioni è più che mai necessario in questo momento di particolare difficoltà per l'accesso al mondo del lavoro. È il messaggio che il Presidente della Repubblica Napolitano ha inviato alla giornata nazionale di Orienta Giovani organizzata a Firenze da Confindustria. Questo è un paese di ciniche cassandre che ignorano consapevolmente tanti giovani attivi, appassionati, ma silenti, che quotidianamente mettono un indicibile impegno nelle cose che fanno, dallo studio al lavoro. Sono state invece le parole del vicepresidente per l'education di Confindustria, Ivan Lobello. La scuola è determinante per questo, perché riguarda tutti, perché è lo specchio della nazione. Noi siamo in una piena emergenza educativa. Siamo una nazione a rischio, ma chi è imprenditore sa che il rischio fa parte del gioco, nell'impresa e nella vita. Ed è un fattore di successo, a condizione che lo si faccia con impegno, dedizione, valori e relazioni autentiche. Anche voi rischiate ogni giorno a scuola, e non soltanto di farvi trovare impreparati per un'interrogazione, questo succede ed è successo a tutti, in senso positivo, perché voi rischiate di mettere in gioco la vostra chance sul futuro. E noi adulti abbiamo il dovere di aiutarvi ad avere una chance vera, reale, sostanziale sul futuro vostro, che diventerà inevitabilmente il futuro del nostro paese. Si sarebbe sbloccato il tavolo sulla produttività. I tecnici di imprese e sindacati hanno lavorato tutta la notte per la formulazione di un documento condiviso che oggi verrà inviato ai vertici delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali, che dovrebbero apporre la loro firma digitale. Sembra così scongiurato il rischio dell'intesa separata senza la CGIL, che poco fa, per mano del segretario Susanna Camusso, ha scritto una lettera che riassume i punti critici della trattativa sui quali trovare una soluzione. Mentre si contano i danni nel centro Italia, ora a preoccupare sono le piogge in arrivo al sud. È un 35enne di nazionalità romena, la quinta vittima del maltempo nel Grossetano. Il suo corpo è stato ritrovato soltanto ieri sera, non lontano dal lago di Burano, a Capalbio. L'uomo, che lavorava come bracciante agricolo, sarebbe stato travolto dall'ondata di piena di un canale. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della sua morte. Governo e istituzioni locali sono ancora al lavoro per fare una prima stima dei danni causati dalle alluvioni. Quelli all'agricoltura soltanto in Toscana ammontano ad almeno 350 milioni, sostiene la Coldiretti. Ieri il presidente della Regione Rossi ha incontrato a Palazzo Chigi il premier Monti, il ministro dell'Ambiente Clini e il capo della Protezione Civile Gabrielli. Per far fronte ai danni e mettere in sicurezza il territorio si ragiona su una deroga ai vincoli imposti dal patto di stabilità. Su Toscana e Umbria intanto le piogge hanno concesso una tregua, anche a Roma è cessato l'allarme per la piena del Tevere, ma a preoccupare ora è la perturbazione di origine africana che sta raggiungendo il sud. Nelle prossime ore si prevedono forti temporali soprattutto su Calabria, Basilicata, Sicilia e Puglia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 20. E si dovrebbe discutere anche dell'emergenza maltempo al Consiglio dei Ministri in corso in questi minuti a Roma, e allora ci colleghiamo con la nostra Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Al centro della riunione è ancora in corso l'emergenza maltempo dopo l'annuncio da parte del governo di un piano sulla sicurezza idrogeologica. Potrebbe anche essere dichiarato lo stato di calamità per le regioni più colpite dalle alluvioni, ma il governo è anche alle prese con il nodo dell'Action Day, che nell'incontro di ieri tra Napolitano e Monti né il giro di consultazioni tra premier e leader della maggioranza è riuscito a sciogliere, anche se sembra farsi avanti l'ipotesi dell'accorpamento delle regionali e delle politiche nel mese di marzo, un compromesso tra le richieste del Quirinale che insiste per approvare leggi di stabilità e leggi elettorali prima del voto e quelle dei partiti. Ricordiamo che il PDL insiste per accorpare le due date pena la revoca dell'appoggio al governo, di cui l'attesa per l'eventuale decisione del Consiglio dei ministri di oggi per il rinnovo dei consigli regionali di Lazio, Lombardia e Molise, ma c'è anche attesa per il pronunciamento del Consiglio di Stato in merito alla decisione del TAR di affrettare il voto nel Lazio. Il decreto di indizioni delle prossime elezioni in questa regione potrà infatti arrivare solo dopo che Palazzo Spada si sarà espresso sulla sentenza del TAR che condanna la governatrice Renata Polverini a fissare subito la data del voto. E per il momento da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. La compagnia aerea Winjet ha presentato una richiesta di risarcimento danni per 162,5 milioni di euro nei confronti di Alitalia. Il vettore siciliano, che ha cessato le attività l'11 agosto, accusa Alitalia di aver accelerato la crisi finanziaria e di aver fatto fallire le trattative per l'acquisto di Winjet, provocandone di conseguenza la bancarotta. Eroe della difesa nazionale o criminale? Con la sentenza del Tribunale Penale Internazionale che ha assolto il generale croato Ante Gotovina, la Croazia chiude un capitolo della sua storia, mentre da Belgrado il vice premier Ljajic dice: il Tribunale dell'Aia ha perso ogni credibilità. Ci spiega tutto in diretta Gigi Donelli. Sì, effettivamente questa storia ci riporta all'estate del 95. Ante Gotovin, allora quarantenne, pianifica, comanda l'operazione Tempesta. È un trionfo militare che riporta sulla Kraina di Knin il vessillo di Zagabria. Sul terreno morti e fuga. Dopo l'esercito rimane una regione svuotata dalla fuga di 250.000 serbi espulsi, a parte quelli che non hanno fatto in tempo, sono stati catturati, magari fucilati o sono bruciati vivi nelle loro case. La Kraina era stata occupata 6 anni prima dalle forze serbe. Oluja è la guerra di liberazione per qualsiasi croato. E Gotovina ne è il comandante militare croato di Zara, a 18 anni, legionario in Africa, a 30, cittadino francese pluridecorato. Torna a casa nel 91 per combattere nella guerra appunto scatenata da Belgrado che fa pezzi la Jugoslavia. Zagabria deve costruire un esercito, Gotovina è una risorsa preziosa. A 35 anni combatte in Slavonia e si mette in luce, capitano, colonnello, maggiore generale, una carriera fulminante da anni di guerra. Sua le operazioni Maslenica e Oluja, appunto, quella che chiude i conti sul terreno riportando la Croazia indipendente ai confini attuali. È proprio per quelle operazioni che nel 2001 il tribunale rinvia a giudizio 4 generali. C'è chi si consegna, Gotovina fugge, Zagabria sta trattando l'ingresso nell'UE, Olanda e Regno Unito ne fanno una precondizione. Nel 2005 il governo croato accetta, l'eroe diventa un latitante. Il 7 dicembre del 2005 viene arrestato alle Canarie. In primo grado, un anno fa, la condanna a 24 anni di carcere. Ecco, oggi la svolta che naturalmente Belgrado non può accettare. A te la linea. Grazie a Gigi Donelli. Oggi c'è stata una vasta operazione di polizia contro un'associazione accusata di odio razziale e antisemitismo. 4 arresti e 17 perquisizioni. L'operazione è scattata all'alba, a Roma e in altre città italiane, portata avanti dalla Digos della capitale e dalla polizia postale, coordinati dalla pool antiterrorismo della Procura. L'ipotesi è quella di aver costituito un'associazione dedita all'incitamento all'odio razziale e alla diffusione di idee antisemite attraverso la pubblicazione online, utilizzando la sezione italiana del forum stormfront.org, sito neonazista e antisemita. Dietro le sbarre sono finiti l'ideologo e 3 attivisti di Stormfront Italia, Daniele Scarpino, Diego Masi, Luca Cianfaglia e Mirko Viola. Stormfront.org è stato definito dai media americani il più grande sito d'odio presente su internet. La base operativa dove sono installati i server è a West Palm Beach, in Florida. Nel 2008 aveva 80.000 utenti unici giornalieri, che sono aumentati di 2.000 unità il giorno dopo l'elezione di Barack Obama. Nel forum italiano, oscurato in mattinata, erano citati i passi del Mein Kampf, pubblicate foto delle SS ed elencati nomi di presunti poteri occulti giudaici. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tiriamo un po' il fiato, chiudiamo con la pagina sportiva. Allora, Giovanni Capuano, oggi è la giornata di Berlusconi a Milanello. Sì, giornata che è nel vivo proprio in questi minuti. Berlusconi, che è arrivato in elicottero come tradizione poco dopo mezzogiorno, ha interrotto l'allenamento della squadra, ha salutato il Sharawi e poi ha parlato per una decina di minuti a tutti i giocatori, quindi ha assistito al resto dell'allenamento e proprio pochi istanti fa ha parlato con i giornalisti, rompendo un lunghissimo silenzio stampa sulle vicende del Milan. Ha detto: gli acquisti di questa estate non sono stati quelli ideali, io vorrei vedere Bojan dietro Pato e del Sharawi, quindi ha disegnato la formazione per Allegri. E poi, a proposito di Pato, ha detto: è un campione che deve riemergere dagli infortuni. Berlusconi si tratterrà ancora qualche ora, Milanello dovrebbe pranzare con la squadra, la verità è che deve capire se i giocatori sono ancora con Allegri alla vigilia di una settimana difficilissima tra Napoli, Anderlecht e Juventus. Allora Giovanni, i nostri ascoltatori ti ritroveranno alle 2 con a tutti i convocati. Intanto questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Pietro Lacorte. Ora GR Spettacoli, poi Italia in Controluce. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buona giornata da Adriana Fracchi e ben ritrovati per una nuova edizione di GR Spettacoli. È arrivato a Roma Sean Penn, è sbarcato stamani a Fiumicino, proveniente da New York, cappellino, occhiali neri e giubbotto beige. L'attore americano parteciperà alla serata di beneficenza dedicata ad Haiti, che domani a Cinecittà chiuderà il Festival Internazionale del Film di Roma. E restiamo al Festival di Roma, dove si è affrontato il tema della complessità della maternità con la leggendaria Charlotte Rampling, l'attrice protagonista di Tutto parla di te di Alina Marazzi. Tutto parla di te, che pure a parti di documentario, è per Alina Marazzi il primo film di finzione. L'ha intervistata Marta Cagnola. Un passo dovuto questo verso la finzione, anche se finzione ibridata, perché sicuramente si era posto già da tempo la questione di fare il film vero, tra virgolette, e in ogni caso credo che per affrontare il tema appunto dell'ambivalenza dei sentimenti nella maternità fosse necessario passare attraverso una vicenda di un rapporto tra persone, quindi personaggi, quindi sarebbe stato difficile come dire andare a toccare magari delle corde emotive o dei non detti, proprio infatti nel film non ci sono tantissime parole, facendolo con il linguaggio del documentario. Ieri anche l'incontro BNL il cinema tra presente e futuro per fare il punto sul settore. Fabio Gallia, amministratore delegato della BNL. Per quanto riguarda il cinema, abbiamo oggi fatto un po' il punto con i produttori, con il mondo del cinema, riaffermando il nostro impegno. Certamente noi dobbiamo fare bene il nostro mestiere, è importante dare certezza delle regole, quindi il tema del tax credit, avere il senso della prospettiva, perché gli investimenti si programmano su un orizzonte pluriannale, e ovviamente anche che poi i produttori sono degli imprenditori, quindi che anche loro sappiano come hanno dimostrato di saper fare, continuare a investire, innovare e avere dei prodotti competitivi. X Factor non finisce di stupire e cresce ancora, un successo confermato dalla quinta puntata, la più vista di tutta l'edizione, con 845.502 spettatori medi, che ha assistito allo sgretolamento della squadra guidata da Elio con la doppia eliminazione di Gendry e Nietzsche, oltre ad ospiti del calibro di Alanis Morissette e Malika Ayan. Fino a domenica a Milano, in occasione della sesta edizione di Fotografica promossa da Canon, si terrà Just a Shot Away, la prima mostra del fotografo Alessio Pizzicanella, che in 100 scatti racconta il suo percorso artistico e professionale. Dal 96 Pizzicanella ha immortalato musicisti e celebrità nazionali ed internazionali, diventando un punto di riferimento per lo Star System. Just a Shot Away è tratto da un brano dei Stones, cioè Gimme Shelter. Gioca un po' sul doppio senso della parola shot, che in inglese può significare sia sparo, come intendono loro nel brano, visto che parlano del Vietnam, ma anche come scatto. E quindi mi piaceva questo giochino, visto che poi tra l'altro nella mostra c'è tanta musica, quindi un riferimento musicale mi piaceva e questo mi sembrava molto adatto. Prima di tutto la passione per la musica. Ero a Londra e andavo a vedere molti concerti, e a un certo punto ho iniziato a fotografarli questi concerti anche per entrare gratis, quindi è nata un po' per caso, devo dire. Da fan musicale sono molto legato a una foto che ho fatto a Robert Plant e Jimmy Page dei Led Zeppelin. È tutto per questa edizione di GR Spettacoli, un saluto da Adriana Fracchia.